giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Andare a scuola, sai contare? Come contare? Come con 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. Sai camminare? So camminare. E contare, camminare insieme lo sai fare? Sì, questo mi sembra. Allora forza, con te cammina. Beh, 1, 3, 4, 5, 6, 6. Oh, dove andiamo? Oh, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? A Tutano ci abita qua. 100 pazzi ci sono da casa nostra, senti. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ci sembrano come te. Salutiamo Tutano! Ecco, il Giovanni! Perché se lo vuoi padroni di Giniti! E lo sciogliellare. Prima che sia troppo tardi. Prima che mi parto a te! Prima di non accorgerti più niente! Abbraccia forti e un corpo allungato come il suo volto. Capelli mai pettinati, baffi, barba e uno sguardo che osserva lontano. È uomo curioso Giuseppe Impastato, Peppino, a Cinisi c'è nato e cresciuto. 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un piccolo imprenditore affiliato al clan di Don Tano Badalamenti. Lo zio, Cesare Manzella, è un capomafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino e quella famiglia gli sta stretta. Rompe con il padre Luigi e avvia un'attività politica di contrasto a Cosa Nostra. Fonda il circolo Musica e Cultura, Cineforum, concerti e dibattiti. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese gli vanno dietro. Lo fanno perché Peppino ha il sorriso perenne e si fidano. Siamo nel 76. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, piccola emittente pirata che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Oh yeah, you speak English? Oui. Ma guarda, tu dice yeah. Chi è questo ingrato? Il cuore. Naturalmente il cuore di Mafiopoli. Tutto è passato, non ci pensare chi. Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa. A voglio si capita, stanno in coppa. In coppa a che cosa? In coppa di cavallo. In coppa di cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. Un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lista il cavaliere. Ma come? Un momento cavallo si è stoppato? No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere. Nel 78 decide di candidarsi alle elezioni comunali. Caratterizza la sua campagna elettorale nella lotta alla mafia criminale, quella che realizza affari e si muove in silenzio, senza fare rumore alcuno. Ma a quell'appuntamento Peppino Impastato non arriverà mai. Giungono proprio in questo momento i risultati ufficiali dell'assegnazione degli scrutatori avvenuta nel corso di una riunione segreta clandestina, come le Brigate Rosse, della Commissione Elettorale. Bene, questi i dati, questi i risultati dell'assegnazione. Democrazia Cristiana, scrutatori, 36. Bene. Inoltre, sono stati assegnati 9 scrutatori al partito della sinistra avanzata, 9 scrutatori, 36 e 9, ho sbagliato prima dato, alla Democrazia Cristiana sono stati assegnati 27 scrutatori, 9 scrutatori sono andati a un cane sciolto, all'ex palafreniere dell'onorevole Ninni Carocio, il quale non sappiamo come distribuirà questa sua consistente setta di torta. 9 scrutatori sono andati al partito della sinistra avanzata, per intenderci al partito di Franco Maneschi, della Democrazia Cristiana, cioè nei 27, all'interno dei 27 scrutatori della Democrazia Cristiana, sono confluiti i 9 scrutatori assegnati quale rappresentante del Partito Socialdemocratico defunto o in via di estinzione a Don Paro Arca di Scienza, il quale, avendo il figlio candidato nelle liste della Democrazia Cristiana, ha ritenuto opportuno e doveroso fare slittare, trasferire i suoi 9 scrutatori alla Democrazia Cristiana. 18 ne aveva e 9, 27. 9 maggio 1978, 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo Gaetano Sdegno è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene. Località feudo, territorio di cinesi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario, è tranciato. E allora cosa fa? Avverte il dirigente della stazione ferroviaria. Alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri. Arrivano sul posto. Compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Impastato. Ma quella notte, sulla ferrovia, non ci sono solo i carabinieri. Sul posto accorrono strani personaggi, gente mai vista prima. Gli amici di Impastato vengono tenuti a distanza. Ciò che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Quella sera Felicia Bartolotta, la madre di Peppino, se la ricorda molto bene. Certo che la ricordo bene. L'aspettavo Marcella la sera, che aveva venuto una cugina mia dell'America, e Giuseppe non si è presentato. Insomma, le compagne dovevano cercarlo. E la mattina è giornata morta, l'obelario. Tutto pezzi, e ci fu una confusione tanta, la testa ce la fracassarono. Giuseppe veniva della radio auto. E lo pigliare a metà di strada, l'hanno stordito in macchina e se l'hanno portato in quel casolare. Un casolare antico, rustico, in una campagna sperduta, nessuna casa. Ora, in quel casolare c'era una palata alla stretta di una sedia e l'hanno messo in questa palata. O forse l'attaccarono e scoppiarono una pietra grossa in testa, come gli animali, fino a che l'hanno ucciso. Hanno pigliato le palate, le pece, e l'hanno portato in uno specialista a Palermo, in De Carpio. E lui fece l'esame di sangue del gruppo sanguigno di mio figlio. Poi si voltava, portava un binario per far capire che aveva fatto un attentato. Ma la gente non ci hanno creduto. Ma siccome c'era la paura a quei tempi, parlavano sottovoce, ma Giuseppe era cosa di fare attentato. Ora no, ora no, ora parlano chiari la gente. Ma poi i carabinieri nasconderono tutto, hanno nascosto tutto. Pietri, le pietre, che c'è stato pezzettine di carne così poco. Hanno nascosto tutti i carabinieri, tutto. Depistaggio numero uno. E notte avviene una cosa strana. Il tratto di binario tranciato dalle esplosioni viene subito riparato. Depistaggio numero 2. A 20 metri dal binario tranciato i carabinieri trovano una Fiat 850 e di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con i morsetti alla batteria. Nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo, proprio la distanza che separa il veicolo dai binari. Depistaggio numero 3. La pista seguita dai carabinieri della polizia è l'attentato terroristico. Sì, perché a Roma, in via Caetani, il 9 maggio del 78, viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle BR. Per gli inquirenti, Peppino muore dilaniato dall'esplosione di una bomba che intendeva collocare proprio lungo la tratta ferroviaria. Depistaggio numero 4. I carabinieri perquisiscono le case della zia Fara Bartolotta, della madre Felicia Bartolotta e dei compagni di Peppino. Requisiscono libri e giornali. In casa della zia trovano la lettera in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Depistaggio numero 5. Non vengono perquisite le case dei mafiosi, soprattutto quella di Don Tano Badalamenti, che si trova proprio a 100 passi da quella di Peppino. Depistaggio numero 6. Nel giorno del funerale, a cui partecipano 1000 persone, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri Subrane, Peppino, impastato e morto compiendo un attentato terroristico. La battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Gli amici di Peppino presentano un esposto e proseguono le ricerche. Il giorno dopo al professor Del Carpio consegnano frammenti del corpo di Peppino e una pietra macchiata di sangue. La pietra, attenzione, la trovano all'interno di un casolare nei pressi del binario dove Peppino era stato portato già tramortito. 30 maggio, depistaggio numero 8, gli amici di Peppino presentano un nuovo esposto, ma il maggiore dei carabinieri Subrani invece di indagare conferma la tesi. Impastato si suicida mentre compie un attentato terroristico. 28 ottobre, vengono effettuate le perizie balistiche per accertare il tipo di esplosivo impiegato per fare saltare Giuseppe Impastato. 6 novembre, 78, è la svolta. La magistratura non crede alle tesi dei carabinieri. Il capo della procura di Palermo è Rocco Chinnici. Il sostituto procuratore della Repubblica trasmette gli atti all'ufficio istruzione per aprire un procedimento per omicidio premeditato a carico di ignoti. 11 aprile 2002, 24 anni dopo, ergastolo a Don Tano Badalamenti. È lui il mandante dell'assassino di Peppino Impastato. E in quel processo si difende il boss che quell'omicidio aveva ordinato. Il fatto che Peppino Impastato abbia detto che Gaetano Badalamenti gioca questo e questo, a meno che risulta assolutamente che una volta sola abbia menzionato il nome di Gaetano Badalamenti, ma può essere che io non la conosco, sicuramente la Corte la conoscerà, presto o tardi, che ha detto Tano seduto. Non mi pare che sia una parola offensiva se era riferita a me. Don Tano Badalamenti è morto venerdì 30 aprile. Era da tempo malato in modo grave. Si è portato via certamente il segreto della vecchia mafia italo-americana. Ma nella sentenza sull'uccisione di Giuseppe Impastato resta comunque scritto. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinise, ma anche è rimasto accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di detta famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo lui il maggiore interessato sia all'eliminazione del Giuseppe Impastato che alla successiva messa in scena dell'attentato. Cosicché il composito quadro indiziario per la sua gravità, precisione e univocità impedisce ogni altra lettura alternativa.